Radio 24 Reportage. Misteri e veleni. 20 anni intorno al covo del boss di Raffaella Calandra. Partono e ritornano qui i misteri di Palermo, in questa anonima palazzina del quartiere Uditore, che ora ospita i carabinieri che invece per anni ha nascosto il più sanguinario boss di Cosa Nostra. Partono e ritornano qui, in questo palazzone di via Bernini 54, tutte le trame di Palermo, quelle del terribile 1992 e queste di un torbido 2012-2013. Partono e ritornano qui i misteri mai rischiarati da quella mattina del 15 gennaio 1993, quando Totò Riina fu catturato, ma il suo covo mai perquisito né controllato. L'arresto di Riina è il primo episodio, sia pure con i problemi, i gravi problemi connessi alla mancata perquisizione e vigilanza soprattutto del covo. L'arresto di Riina è il primo di una serie infinita di altri arresti altrettanto eccellenti. Prima cosa che mi viene detta scendendo la scaletta dell'aereo è che questo arresto c'è stato. Giancarlo Caselli, ora alla guida degli uffici investigativi di Torino, si era appena insediato a Palermo quel giorno di 20 anni fa, e se la notizia della cattura di Totò Ucurtu, il capo che volle la stagione delle stragi, lo raggiunse subito sulla scaletta dell'aereo, gli interrogativi per la mancata perquisizione dell'abitazione lo rincorrono da sempre, interrogativi risvegliati ora, oltre che dalle inchieste, dalla mano anonima di un corvo. È cupa, gravida di sospetti e pesante come da tempo non succedeva l'aria nel corridoio del Palazzo di Giustizia di Palermo, che non ha mai smesso di essere quello dei veleni. Ora le ombre sono tornate ad allungarsi, più fitte, da quando il PM Nino Di Matteo, il più esposto nelle indagini sulla trattativa dopo l'impegno politico di Antonio Ingroia, ha ricevuto a casa questo scritto senza firma. Ora anche di più il timore di essere schedati e pedinati accompagna molti magistrati, ora che questa mano senza nome ha parlato anche di dossier sul conto delle toghe palermitane, oltre ad aver dato un'altra versione sulla sorte dei documenti del covo di Riina. E altre inchieste sono state aperte. Il procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari. I profili di nostra competenza riguardano, diciamo, la vicenda dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, poi anche il riferimento alla sala anonimista, alla presunta attività di intelligence che riguarderebbe i magistrati. C'era già stato un processo che aveva portato anche ad una assoluzione, no, del carabiniere Arcangeli. Su questa vicenda c'è stata non una assoluzione, bensì un proscioglimento. L'anonimista non fa riferimento ad Arcangeli, fa riferimento a un carabiniere. Noi abbiamo avuto da Palermo soltanto una copia dell'anonimo omissata di tutto, tranne che delle parti di nostra competenza. Ci potrebbero essere profili di interesse per quanto riguarda la vicenda sulla trattativa. Di pizzini e veleni, come di corvi e sospetti, è da sempre intessuta la storia del Palazzo di Giustizia di Palermo, già dai tempi di Giovanni Falcone e ancora di più dopo la stagione del Tritolo, una stagione che conduce diritto fino al covo di via Bernini, ultimo rifugio del boss che ordinò quel sangue e luogo simbolo di un mistero mai svelato nonostante le assoluzioni per quella mancata perquisizione dell'allora colonnello Mauro Mori e di ultimo il capitano Sergio De Caprio. Ora spalanca scenari nuovi e ombre ancora più inquietanti questa mano senza firma, che sembra molto ben informata. Parla di carte prese dalla casa di Riina e portate inizialmente in una caserma dei carabinieri, documenti spariti nei lunghissimi 19 giorni dalla cattura del boss il 15 gennaio del 93 e il momento in cui il neo procuratore Giancarlo Caselli si rese conto che nessuno aveva controllato quella casa. Quando arrivo trovo una procura sfasciata, ancora percorsa da veleni, tensioni, divisioni, corvi, le feroci polemiche su Falcone. L'arresto di Riina è il primo episodio, sia pure con, diciamo, i problemi, i gravi problemi connessi alla mancata perquisizione e vigilanza soprattutto del covo. L'arresto di Riina è il primo di una serie infinita di altri arresti altrettanto eccellenti. I fratelli Brusca, i Ganci, i Madonia, Gaspare Spatuzza, i fratelli Graviano. Se io oggi, 20 anni dopo, le dovessi chiedere proprio i suoi ricordi di quella giornata. Il possibile arresto di Riina, avevo già sentito parlare a Torino, il comandante della regione Piemonte dei Carabinieri, generale Delfino, mi convoca. Mi dice che c'è un pentito che probabilmente può portare a catturare Riina. Chiedo che immediatamente sia convocato il colonnello Mori. A capo dei Rossi. E Delfino racconta anche a Mori quello che aveva appena raccontato a me. Io prendo il telefono, avverto i miei colleghi di Palermo, loro prendono in mano insieme ai carabinieri l'operazione e magari col concorso di altri fattori, non lo so, sicuramente si arriva alla cattura di Rina e una cosa che mi viene detta scendendo la scaletta dell'aereo è che questo arresto c'è stato. Ricordiamolo, chi era il pentito? Balduccio Di Maggio, pentito che poi diventerà famoso, per qualcuno famigerato, per la storia del bacio che Rina avrebbe dato ad Andreotti. La cosa più naturale dopo la cattura avviene la perquisizione. Nel caso specifico di Totò Riina questo non è avvenuto. Con che cosa successe? Noi avremmo voluto perquisire, i carabinieri ci hanno parlato di un'operazione più articolata con cui la perquisizione avrebbe potuto interferire negativamente. Abbiamo deciso di accedere a questa impostazione nella convinzione che il covo sarebbe stato sorvegliato, la cosa invece purtroppo non è avvenuta, donde tutte le polemiche che sappiamo. Di questo fu informato solo 19 giorni dopo, giusto? Sì, certo, questa è storia. Ma che cosa pensò nel momento in cui venne a sapere che quel covo non era stato controllato e che anzi all'interno era stato ripulito? Qualcosa non aveva funzionato, ci fu uno scambio di corrispondenza fra me e i carabinieri, anche questo è consegnato agli atti, non credo che ci siano cose nuove che possano essere aggiunte. Considerando anche queste vicende spinose, ripensandoci 20 anni dopo, c'è qualcosa di cui in qualche modo si rimprovera? Possono essere tante le cose che uno, se potesse tornare indietro, rifarebbe o farebbe in una maniera diversa. Sono contento di provato a rendere un certo servizio che, secondo me, si è concretato in risultati significativi. Da una parte la versione ufficiale di Balduccio Di Maggio sulla cattura di Riina, ricordata qui dall'allora procuratore Caselli, dall'altra ciò che molto tempo dopo ha riferito su quei giorni Massimo Ciancimino, ultimo figlio di Don Vito, l'uomo del sacco di Palermo, l'uomo che i corleonesi vollero a sindaco della città e che poi anche lo Stato cercò, secondo la versione del figlio, quando dopo le bombe tentò un canale con i vertici di Cosa Nostra. Non può essere messo in discussione il fatto che nel giugno del 92 sono le istituzioni, nella persona del capitano De Donno, che contatta me, a cercare un canale prioritario con il vertice di Cosa Nostra. Ma quindi suo padre sapeva dove si nascondeva Riina o comunque ha potuto saperlo nel momento in cui ha cercato questo tipo di informazione? Mio padre non sapeva dove stava Riina. Che poi mio padre avesse chiesto e avesse avuto le risposte in merito dove era possibile l'ubicazione dell'abitazione Riina dei familiari, questo lo so per certo, perché sono stato io quello che anche ha preso queste famose piantine dove era circoscritta la zona dell'abitazione Riina. Tutto si tiene in questo palazzo di giustizia che ha occhi e orecchie dappertutto e nulla sembra succedere per caso. I corvi tornano a svolazzare quando il vento porta scompiglio e alza nuova polvere sporca. Quello di oggi, dicono molti di quelli che seguono gli affari palermitani, somiglia al vecchio corvo, quello che accusava Falcone e De Gennaro di dare carta bianca al pentito contorno. Così, dietro porte blindate e metal detector, il veleno torna ad insinuarsi nelle intercapedini del palazzo di Palermo, fuoriuscito ancora una volta anche da quel covo di via Bernini 54, che rappresentò sì l'inizio del riscatto dello Stato, ricorda Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche resta un grumo non ancora sciolto di ambiguità. L'arresto di Riina ha segnato un colpo comunque molto importante dello Stato nei confronti di Cosa Nostra e questo ha in qualche modo segnato un mutamento di strategia da parte dell'organizzazione mafiosa che, essendosi trovata senza l'ispiratore della stagione stragista, ha cercato altre strategie. Dopodiché i contorni relativi alla cottura di Riina restano coperti da grandi margini di ambiguità, ma questo naturalmente lo dicono le sentenze, a cominciare dalla sentenza del Tribunale di Palermo che mandò assolto l'allora generale Mori proprio dalle vicende relative al covo di Riina. Qualcosa di poco chiaro è rimasto, non so quanto siano gli strumenti della giurisdizione quelli che possono fare chiarezza a questo punto. Cioè 20 anni dopo, se non ci sono elementi davvero nuovi, cioè la decisione di qualcuno di parlare, le segnalazioni di un corvo anonime non potrebbero potrebbero bastare per arrivare ad una rilettura di quei fatti. Le notizie anonime devono essere vagliate e su quello i colleghi stanno facendo con scrupolo il massimo lavoro possibile. L'arrivo di questa lettera anonima, considerando anche il momento, come la valuta? Arrivano molte anonime negli uffici giudiziari, solo alcuni e solo in determinati momenti acquisiscono, diciamo così, una fama diversa dal normale. Anche su questo bisognerebbe fare delle riflessioni, forse anche dal punto di vista delle investigazioni. L'anonimo in sé è oggetto di investigazione, la divulgazione dell'anonimo anch'essa dovrebbe essere oggetto di attenzione, nel senso c'è chi scrive l'anonimo e ha interesse a scriverlo, c'è anche chi ha interesse a divulgarlo. 20 anni dopo, dunque, i misteri di Palermo partono e ritornano qui, davanti ad un'anonima palazzina intrisa ancora di troppi segreti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.